E buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Alma e in particolare a coloro che stanno ascoltando in questo momento I colori dell'anima. Buonasera Anna Maria e buon anno. Buonasera Rosanna e buon anno a tutti. Grazie, Iniziamo grazie. questo 2015, siamo noi ad iniziare Sì, siamo quest'anno. noi ad inaugurare i colori dell'anima del 2015, naturalmente con una nota di tristezza perché, come tutti sapete, questa notte è morto Pino Daniele e io ho scoperto solo oggi che aveva 59 anni, pensavo fosse più anziano, tra l'altro. Quindi, insomma, a parte la bravura, ma anche sapere che era così giovane, è veramente una grande perdita per la canzone italiana e penso per la nostra generazione, per la mia sicuramente, Sì, indubbiamente. che sono nello suo stesso decennio, quindi, insomma, mi mancherà molto. E va bene, quindi ricominciamo, domani la Ricominciamo, Befana, sì, domani la Befana. quindi. Mi ricordo che l'anno scorso abbiamo fatto una trasmissione sulla Esattamente, l'anno Befana. scorso venimmo in radio proprio, era il 6 E di anche gennaio. quest'anno le Befane sono Anche tornate. quest'anno, tutti gli anni le Befane sono belle pronte ad andare in Sì, trasmissione. perché i teleascoltatori non ci vedono, ma noi fuori abbiamo parcheggiato la scopa. E poi stasera ci facciamo un bel giro, io e Rosanna, soprattutto a Bruxelles. Esattamente, però non vi possiamo dire dove andiamo perché, insomma, quello lo vedremo, quello è un segreto, insomma, lo sanno solo, i bambini, chissà, forse i Solo quelli bambini. buoni? No, dai, noi andiamo da tutti i bambini. I bambini per Infatti, principio sono tutti buoni. Poi ce n'è qualcuno più vivace, dai, su. Siamo due befane buone. Allora, dunque, in questa ripresa di trasmissione, proprio perché siamo tornate diciamo, ci siamo rimesse in attività oggi, e non siamo ancora, come si suol dire, a pieno regime, No, parleremo. secondo me stiamo ancora digerendo degli Questo è stravizi vero, questo è vero. delle feste, sì. Rosanna, tu che cosa hai fatto durante queste feste? Sei rimasta a Bruxelles o sei andata in Italia? No, io sono andata in Italia, penso come molti degli italiani, anche se ho trovato qualcuno che non è andato. Io non sono Io, partita. infatti, questo che volevo, ma a parte te, ho scoperto anche di altri italiani che invece di andare, di tornare, diciamo, nei loro paesi, hanno trascorso il Natale qui, facendo venire magari Esattamente, parenti o esatto. amici Noi dall'Italia. abbiamo fatto venire il papà e la mamma perché così si spostano soltanto due persone E e certo, noi uno deve eravamo fare tutti anche qua. un ragionamento di questo Pratico, tipo, noi è siamo vero, praticissimi. E poi secondo me anche per loro così fanno un giro a Bruxelles Sì, certo. perché poi magari loro presi dalla loro routine non viaggiano più tanto spesso per cui gli fa una vacanza, via, una vacanza. Beh, infatti, ma io penso che se fossi a Natale anch'io mi sentirei in vacanza. Naturalmente, appunto, mi piacerebbe che venissero i miei familiari, ma la Sì, vivrei anch'io come una vacanza. e devo dire la verità, io da quando sono qui in Belgio, forse sono rientrata in Italia soltanto una o due volte al massimo, perché a me piace Natale a Bruxelles, a parte la città ha un aspetto diverso, e poi ci Sì, sono questi bei mercatini, e non so, sei stata a vedere i giochi di luce della Grand Place? sono Sono stata molto bellissimi, belli. ogni Sì, anno è una cosa, li fanno diversi sì, poi. Sì, sì, sì. e ci ho portato mio papà, sono riuscita a portarci mio papà quest'anno. Che Sì. vuoi Beh, dire, sei riuscita, che gli altri anni non lo portavi le altre volte? loro non sono venuti sempre. Un'altra volta ero riuscita a portarli, però mio papà, siccome ha difficoltà a camminare, quest'anno ha comprato il tapis roulant. Ah, ecco. E allora gli ho detto: fai un po' di esercizio prima di venire a Bruxelles, perché poi ci andiamo a fare una bella passeggiata. E effettivamente, no, è sempre molto bello. A me piace moltissimo il Sì, centro della sì. città. Anche a me. E la Grand Place, è bella in generale, ma la sera e con queste luci è spettacolare, in effetti. Sì, molto bella. E quindi ce la siamo goduta. Brava, brava. Allora, io dunque la trasmissione di stasera, come dicevo, sarà molto improntata a scoprire una serie di attività, in modo particolare organizzate dall'Istituto Italiano di Cultura, che si svolgeranno nel corso del mese di gennaio, perché appunto adesso le vacanze sono finite, abbiamo fatto tutti gli auguri, tutte le mangiate del caso, ma ci rimettiamo quindi in carreggiata e appunto approfittiamo di questo mese magari per andare a vedere qualche bel film, qualche altro spettacolo. E comunque, prima di tutti, vi segnalo, e lo ridiremo ancora nel corso della trasmissione, tenete presente che l'11 gennaio 2015, quindi domenica 11 gennaio, per inaugurare il nuovo anno in allegria, lasciatevi trasportare dall'Orchestra Italiana di Bruxelles in una serata all'insegna della musica, del cibo e della convivialità tipici del bel paese. Oltre alla buona musica troverete diversi stand dove potrete assaggiare e acquistare tante prelibatezze italiane e gustare i fantastici arancini siciliani. Quindi, ma allora non abbiamo finito con la roba da mangiare. No, non abbiamo finito, dai, però ci abbiamo qualche giorno adesso per perdere i chili acquisiti. Allora, dove? Alla Rue de Dublin, numero 13, a XL 1050, questo posto apre alle ore 18, però il concerto dell'orchestra italiana ci sarà alle 19.30. L'ingresso costa 8 euro, 5 euro se si è studenti. E appunto questo lo ricorderò ancora perché ci teniamo molto, ci teniamo anche perché il direttore dell'orchestra è Angelo Gregorio, il nostro compagno di trasmissione. Angelo e Carla, e adesso insieme a Cecilia, come sapete, si alternano con noi, oltre che con Leandro, Tiziana e Rossella e Cristina e Barbara, nella conduzione di questa trasmissione che è I colori dell'anima. Quindi, l'Orchestra Italiana, brevemente, è nata da un'idea nel settembre 2013, proprio da un'idea di Angelo Gregorio, e oggi conta 15 musicisti tra cantanti, legni, ottoni, archi e sezione ritmica, quasi tutti di origine italiana. Il repertorio vuol far scoprire ai non italiani e agli italiani all'estero i classici della canzone swing italiana degli anni 40, fino agli anni 80, senza dimenticare le melodie che hanno fatto il giro del mondo. Gran parte degli arrangiamenti sono stati curati appunto da Angelo, mentre altri sono stati gentilmente regalati all'orchestra da altri arrangiatori, quali i maestri La Rocca, Rimerici e Thomas Frand. E quindi ci sarà appunto questo concerto, ripeto, l'11 gennaio, domenica, presso la Rue de Dublin 13. Non so che luogo è, però penso che non vi potete sbagliare se andate alla Rue de Dublin 13 1050 a XL, quindi c'è l'apertura delle porte alle 18 e il concerto alle 19.30. In ogni caso l'ingresso costa 8 euro e 5 euro per gli studenti. Andiamo, Anna Maria, che dici? Andiamo, dove andiamo? Andiamo sicuramente alla Rue de Dublin 13, domenica. Spero di riuscire domenica. Ah, è vero, spero che tu riuscire. Hai delle altre attività, va bene, però magari ci proviamo, dai, io sicuramente vado. Allora, vi mando un brano musicale, ci ritroviamo fra pochi minuti, mi raccomando restate in sintonia, collegati quindi con Radio Alma, che potete seguire appunto sulla frequenza 101.9, oppure dal sito che è appunto radioalma.eu, e quindi seguendo l'icona direct, e ci ritroviamo fra poco. A dopo. E questo era un brano tratto da un CD che era stato realizzato qualche anno fa da Pino Daniele, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Ron. Il brano che avete ascoltato, Non sono un cantautore, cantato appunto da Ron, Mannoia e Daniele. E quindi con questo brano vorremmo appunto ricordare Pino Daniele, che come sapete è morto la notte scorsa dopo un infarto. Allora, Anna Maria, prima puntata dei Colori dell'Anima, di cosa parliamo? Continuiamo un pochino a promuovere questi eventi di cultura tipicamente italiana. Parliamo soprattutto dell'Istituto Italiano di Cultura, che cerca di presentare sempre delle cose molto estremamente interessanti. Allora, vi faccio qualche esempio. Per esempio, il 12 gennaio c'è un evento che si chiama Italy in a Day di Gabriele Salvatores. Dunque, Italy in a Day è l'edizione italiana curata da Gabriele Salvatores di un progetto di Ridley Scott. È stato chiesto agli italiani di inviare dei video realizzati con qualsiasi mezzo, quindi parliamo di telecamere, smartphone, fotocamere, qualsiasi cosa. Dunque, dei video girati durante 24 ore consecutive dal 26 ottobre del 2013. Questi video potevano raffigurare sogni, desideri, paure, riflessioni. Un po' difficile raffigurare paure, riflessioni, qualsiasi cosa considerate importante, che accadeva nel giro di giorno e anche semplicemente quello che si vedeva dalla finestra di casa. Italy in a Day, il risultato di questo, chiamiamolo esperimento, sono 44.197 video ricevuti per oltre 2200 ore di immagini, 632 video montati con una squadra di 40 selezionatori coordinati da Massimo Fiocchi e Chiara Griziotti. Dunque questo film verrà proiettato il 12 gennaio, appunto. Allora, Anna Maria, io ho una cosa da dire a questo proposito. Il 26 ottobre 2013 anch'io ho mandato un video. Me lo ricordo che me ne avevi parlato. Allora, sono andata con quattro amici e un bambino, però il bambino appunto per motivi, diciamo così, di protezione, di rispetto della privacy, non l'abbiamo filmato, e eravamo qui a Bruxelles tutti e cinque, e siamo andati alla Grand Place con questo bambino. Quindi in realtà eravamo in sei, ma appunto il bambino non è stato mai ripreso e neanche non c'ero neanche io nel video. E ci siamo seduti ad un tavolo della Grand Place, strano perché era il 26 ottobre, quindi diciamo il clima era talmente dolce che si poteva stare seduti fuori un pomeriggio, e in questo pomeriggio, quindi, diciamo che queste quattro persone che erano a tavolo hanno intavolato un discorso, devo dire, abbastanza naturale, su che ne so, si sono fatti delle domande ed è stato molto simpatico. Quindi io ho fatto questo video, però non me lo hai fatto vedere questo video. No, non te l'ho fatto vedere, te lo farò vedere, e naturalmente l'abbiamo mandato. No, purtroppo so che non è stato selezionato, perché ci hanno detto, quando abbiamo fatto l'uploading del video, che se fossimo stati selezionati loro ci avrebbero chiesti un documento sulla privacy, non mi ricordo. Quindi sì, non certo. Avendo mai avuto questa richiesta, deduco che non siete stati che questi miei amici non sono nel video, quindi mi dispiace un po', ma evidentemente, insomma, so che ne hanno ricevuti tanti. C'è stata veramente una grande risposta, e poi la cosa carina era proprio questa, che il video andava realizzato proprio quel giorno, nell'arco di 24 solo ore, quindi da mezzanotte un minuto del 26 di ottobre fino a mezzanotte meno un minuto del giorno stesso. Ma c'è un nesso? C'è qualcosa di particolare in questa data? Oppure No, non so perché sia stata scelta questa data. Forse c'era anche una spiegazione, adesso non me la ricordo, però mi ricordo che era proprio questo il giorno, e già da diversi mesi prima c'era questa pubblicità. Quindi, benché appunto in un certo senso noi non rappresentiamo gli italiani dell'Italia, anzi proprio per questo abbiamo messo in evidenza questo fatto, cioè che questi miei amici parlavano del fatto che loro erano italiani che vivevano in Belgio, e quindi hanno fatto riferimenti proprio al loro vivere quotidiano all'estero. Mi sembrava carino, perché l'Italia sappiamo che è fatta anche di questo, non è fatta solo di italiani che sono in Italia, è fatta di moltissimi italiani che sono all'estero. Esatto, gli italiani sono uno dei popoli che che è emigrato di più, quindi diciamo che mi è dispiaciuto. Detto questo, e poiché non ho visto ancora il film, lunedì 12, tra una settimana, mi renderò conto, diciamo, dei pezzi che sono stati presi. Sai, magari è stata fatta una valutazione, che ne so. Io ovviamente non posso giudicare in che modo i pezzi sono stati scelti. Probabilmente però avranno dovuto fare anche una scelta di tipo tecnico, magari con delle risoluzioni particolari. Magari sì. È stato molto divertente farlo, cioè con queste persone, anche pensare al luogo, discuterne, prepararsi, abbiamo fatto 3 o 4 video prima di decidere qual era quello buono, perché abbiamo fatto veramente uno di pochi minuti, insomma, non era un video lungo, ma ci siamo divertiti a farlo, quindi anche se non è stato preso nel film. È un'iniziativa molto carina, secondo me, sì. Una cosa simpatica, una cosa... che esci un po' dall'ordinario. Sì. No, questa appunto non è una, diciamo, una invenzione italiana, ma è stata fatta, realizzata anche da questo Ridley Scott, quindi è stato fatto già in altri paesi, e questa cosa invece italiana era la novità, era che si faceva in Italia per la prima volta. Quindi vi invito calorosamente ad andare a vedere, quindi più che un film è, diciamo così, un documentario dove si è filmato di tutto, ma secondo me è interessante vedere come hanno appiccicato, sì, i vari pezzi. Esatto. Mi incuriosisce molto. È interessante vedere appunto come hanno fatto questi montaggi, sì, ed è interessante anche scoprire che cosa desiderano gli italiani, che cosa vogliono, quali sono le cose che attirano la loro attenzione. No, sono curiosa di vederlo. Sì. Quindi lunedì 12 gennaio alle ore 19 all'Istituto Italiano di Cultura, che come sapete è alla Rue de Livourne 38. Io questa Rue proprio non riesco a dirla come si deve. Dopo tanti anni. Mannaggia, veramente, non è che io parli... non ce l'hai bene. Ancora. C'è sempre qualche francofono che mi prende in giro su come dico Rue. Forse adesso l'ho detta discretamente. Benissimo. Va bene, allora io proporrei ancora un brano musicale. Ci ritroviamo fra pochi minuti. Ci racconterai di altri film che ci altri sono. Altri eventi. Sono promossi, e sì. Ci ritroviamo fra poco. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con I Colori dell'Anima. Saluto Maite, che prima, mentre c'era il brano di Pino Daniele, Ron e Fiorella Mannoia, ci ha chiamati. Ciao Maite, buona Ciao serata Maite. A te. E a risentirci quindi fra pochi minuti. Allora, eccoci qua, torniamo a parlare un pochettino di questi eventi che sono promossi dall'Istituto Italiano di Cultura, che si trova in Rue de Livourne. Ti prendo un poco in giro, poco, dai, coraggio. E dunque, torniamo a questi eventi. Allora, vi segnalo un film che si chiama Voluptas Dolendi, I gesti del Caravaggio, di Francesco Vitali. Dunque, questo è un adattamento cinematografico dell'omonimo atto di unico teatrale per arpa e danza, realizzato nel 2002 per l'ottavo ciclo di concerti della Fondazione Marco Fodella, Deda Cristina Colonna, danza e recitazione, Mara Galassi, arpa doppia, Barbara Petrecca, i costumi, Francesco Vitali, adattamento cinematografico, fotografia e regia. Dunque, musiche di compositori che sono del XVII e XVIII secolo. La produzione è Fondazione Marco Fodella, sotto gli auspici del, leggo testualmente, MIBACT e del MAEC. Sono stata brava? Bravissima, come sai leggere tu, guarda. Dunque, il film invita lo spettatore a penetrare nei quadri del Caravaggio attraverso una sapiente ricreazione di gesti, passi, di suoni, di figure, di luci, registrato nella Basilica di San Marco a Milano. È la durata di 55 minuti. La proiezione sarà seguita da un dialogo con la danzatrice e coreografa Deda Cristina Colonna. E questo avviene il mercoledì 14 gennaio 2015, ovviamente, alle ore 19, sempre Rue de Livourne. Poi c'è un'altra cosa che mi sembra interessante da segnalare, è una conferenza Arte e Politica a Siena, gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti. Allora, l'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles organizza presso il Beaux-Arts, questa volta, quindi non più in Rue de Livourne, in occasione della mostra Peinture de Sienne, e non so se tu l'hai vista, ma vale la pena, io sono andata. No, non l'ho vista. Peinture de Sienne, Ars Narrandi dans l'Europe Gothique, un dibattito sul libro di Patrick Boucheron, Conjurer la peur, Sienne 1338, Essai sur la force politique des images. Saranno presenti l'autore, docente di storia medievale a Paris Panthéon-Sorbonne, e Alessandro Barbero, docente di storia medievale all'Università del Piemonte Orientale. E il dibattito però in questo caso sarà fatto in lingua francese. E vi leggo un piccolo estratto di Fabio Gambaro della Repubblica. Dice così: Le minacce che insidiano dall'interno la democrazia sono a volte più pericolose degli atti esterni. Per Ambrogio Lorenzetti ciò era evidente già nel 1338, l'anno in cui dipinse a Siena il celebre affresco del buon governo. Lo ricorda oggi lo storico Patrick Boucheron in un libro affascinante che in Francia sta riscuotendo l'elogio unanime del pubblico e della critica, Conjurer la peur, un denso saggio sulla forza politica delle immagini, che parte proprio da un'originale e dettagliata analisi dell'opera con cui il pittore senese mise in guardia contro gli effetti del buono e del cattivo governo in città e in campagna. Secondo lo studioso francese, professore di storia medievale alla Sorbona, l'insegnamento dello straordinario affresco è ancora oggi di grandissima attualità. Pur essendo stato dipinto quasi 7 secoli fa, il lavoro visionario di Lorenzetti continua a dirci qualcosa sui rischi che corre la democrazia e sulla necessità di difenderla. E questo era appunto questo estratto della Repubblica di Fabio Gambaro. Ripeto che questo evento è previsto per il 15 di gennaio alle ore 19 al Beaux-Arts. Sì, e appunto, ad ogni modo, come le informazioni, diciamo, di questi eventi che stiamo dando sono presi dal sito dell'Istituto Italiano di Cultura. Per maggiori informazioni si può telefonare allo 02 533 2720 oppure mandare una mail a iicbruxelles@esteri.it per avere maggiori informazioni. Però appunto sul sito che è www.iicbruxelles.be si trovano tutte le informazioni che vi stiamo dando stasera. E successivamente, quindi, questo era, come dicevi tu Anna Maria, era il 15 di gennaio, dopo c'è invece il 19 gennaio, quindi tra 2 settimane, il film Io sto con la sposa, un film di Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande e Khaled Soliman, un poeta palestinese siriano e un giornalista italiano incontrano a Milano 5 palestinesi e siriani sbarcati a Lampedusa in fuga dalla guerra e decidono di aiutarli a proseguire il loro viaggio, clandestino naturalmente, verso la Svezia. Per evitare di essere arrestati come contrabbandieri, però, decidono di mettere in scena un finto matrimonio coinvolgendo un'amica palestinese che si travestirà da sposa e una decina di amici italiani e siriani che si travestiranno da invitati. In questo caso sarà presente il regista Antonio Augugliaro. Il film sarà in lingua italiana con i sottotitoli in francese. E quindi lunedì 19 gennaio 2015 alle ore 19. A dove, Anna Maria? L'Istituto Italiano di Cultura. Indirizzo? Rue de Livourne 38, ecco, questo lo so dire. E quindi, insomma, questi sono i film previsti, i film, le attività non sono solo film, come avete visto, c'è un po' di tutto, ma ci sono appunto anche altre attività di cui continueremo a parlarvi tra un minuto. E mandiamo ancora un brano di Pino Daniele per diciamo ricordarlo attraverso le canzoni, quelle tutte belle, anche perché lui aveva una voce molto peculiare, e ci ritroviamo quindi fra pochi minuti. Mi raccomando, rimanete con noi, vero Anna Maria? Eh sì, non ci lasciate da sole. E se nel frattempo voleste telefonarci, qual è il nostro numero? Allora, 02 345 2656. Perfetto. Allora aspettiamo le vostre telefonate e ci ritroviamo fra pochi minuti. E questo era Pino Daniele con la canzone Quando del 91, appunto questa sera brani di Pino Daniele in ricordo della sua scomparsa avvenuta questa notte. Allora Anna Maria, tra gli avvenimenti, e prima di ridarti la parola, volevo ricordare ancora una volta che domenica 11 gennaio, quindi domenica prossima alle ore 19.30, ci sarà il concerto dell'Orchestra Italiana Bruxelles, e concerto che però ci sarà nell'ambito di una serata tutta italiana che inizierà alle ore 18, dove tra l'altro ci saranno delle prelibatezze italiane che potranno essere assaggiate e acquistate. E ovviamente c'è l'evento su Facebook. Tu, Anna Maria, avrai Facebook, quindi lo potrai vedere. Sì. Io non ce l'ho. Me lo hanno già segnalato questo evento. Come faccio a convincerti a farti una piccola pagina Facebook? Non lo so, per adesso non sono ancora convinta. Allora, quindi l'apertura... Ma ti divertiresti un sacco. Può darsi, starei sempre su Facebook e non farei più niente, no, guarda. No, assolutamente. Sì. La però sera invece di fare le lavatrici e non so che, mi metterei su Facebook e addio lavori domestici. Ormai molti eventi vengono pubblicizzati quasi, non dico sì, quasi esclusivamente, ma comunque... Se non è sei su Facebook, non sei nessuno. Esattamente. Allora, comunque, per chi non ha Facebook, potete cercare su internet Orchestra Italiana Bruxelles e andate direttamente al sito di che è appunto http://orchestraitalianabruxelles.wordpress.com. Questo è il sito, ma comunque ripeto, con Google si può trovare facilmente. Allora, quindi 11 gennaio 2015 alla Rue de Dublin numero 13 XL 1050, inizio della serata alle ore 18, ma il concerto ci sarà alle 19:30. L'ingresso per questa serata è di 8 euro e 5 euro per gli studenti. Benissimo. Andiamo avanti. Andiamo Anna Maria. Avanti con altri eventi. Non so se stanno prendendo nota a casa, magari, non si sa mai. Allora, segnaliamo qualcos'altro che ci sarà in programmazione per il 20 di gennaio. Dunque, questo è un concerto di musica e poesia. Al cuore fa bene fare le scale. Mi piace moltissimo questo. Questo sì, mi piace, anche perché ora ne dovrò fare un bel po' di scale. Dunque, di Patrizia Cavalli e Diana Tegera. Dunque, questo è un concerto di musica e poesia. Al cuore fa bene fare le scale. Patrizia Cavalli e Diana Tegera hanno scelto questo titolo così evocativo per battezzare il frutto dell'inedita originale collaborazione che le vede protagoniste di un suggestivo incontro fra la grande poesia contemporanea e la musica pop. Un dialogo in versi sulle note della musica, in cui ritmo e poesia si incontrano e si raccontano l'un l'altra in un connubio denso di passioni ed emozioni. Patrizia Cavalli è nata a Todi e vive a Roma. Ha pubblicato presso l'editore Einaudi Le mie poesie non cambieranno il mondo nel 1974, Il cielo nel 1981, Poesie nel 1992, Sempre aperto teatro 1999 e Pigre, divinità e pigra sorte nel 2006. Presso le edizioni Nottetempo, i poemetti La Guardiana nel 2005 e La Patria nel 2011. Ha vinto diversi premi, tra cui Viareggio Repaci, Pasolini, Dessì, Leri Cipea, Brancati, De Sanctis e Monselice. Ha scritto radiodrammi per la RAI e ha tradotto per il teatro Shakespeare, Wilde, Molière e Peter Book. Ha recentemente pubblicato Flighty Matters, poesie sulla moda in edizioni bilingue. Questo non lo leggo. Le sue poesie sono state tradotte in varie lingue, tra cui il francese, il tedesco, l'inglese e lo spagnolo. Invece, Diana Tegera, io leggo Tegera ma non sono sicura che sia così la pronuncia, è nata a Roma nel 1997, studia composizione al CET di Mogol, nel 2000 fa parte della band di I Plastico, con cui partecipa al 52esimo Festival di Sanremo col brano Fruscio. Nel 2003 prosegue la sua carriera da sola e inizia a collaborare con vari artisti, tra cui Chiara Civello, Anna Corolina e Tiziano Ferro, con cui compone i brani E fuori e buio, presente nel disco di Ferro, Nessuno è solo nel 2006, e Scivoli, di nuovo contenuto nell'album alla mia età 2008. Nel 2010 esce per l'etichetta Sunny Beat la mia versione, il suo primo album da solista in cui si fondono il gusto melodico italiano all'energia latina, le sfumature folk e quelle del rock più energico. E questo di nuovo il 20 gennaio 2015. Interessante che sono due donne, una poetessa e una musicista, che si sono messe insieme. Penso che deve essere interessante anche questa, sì, questa serata, mi sembra così, insomma, una bella presentazione. Poi, come dicevi tu, è molto intrigante questo titolo, Al cuore fa bene fare le scale. Sì, sì, sì, è carino. Simpatico. Adesso, perché a gennaio ci viene proprio il piccolo rimorso di coscienza, dovremmo fare più movimento, prendiamo le sole, certo, invece dell'ascensore. Certo. Quindi sì, va bene questo. In gennaio, sì, certo, certo. Allora, poi invece il 21 gennaio, mercoledì, ci sarà la commemorazione del partigiano Ennio Cric Odino. Penso che per gli italiani che vivono a Bruxelles, penso che tutti lo conoscevano. Era appunto uno degli ultimi partigiani, morto appunto il 13 dicembre scorso, ed è stato un partigiano e ciclista italiano. Così molto brevemente, lui fu arrestato il 7 aprile del 44 con altre 75 persone nel corso di un rastrellamento delle forze nazifasciste e fu portato al santuario della Benedicta, dove però riuscì a sottrarsi al massacro benché ferito e tentò la fuga, che durò però soltanto qualche giorno. Fu di nuovo catturato, lui era chiamato Crick, era il suo nome di battaglia, e fu deportato nel lager nazista di Mauthausen-Gusen, dove gli fu assegnato il numero 63783. Lì aderì alla resistenza interna del campo, organizzando sabotaggi fino a partecipare alla liberazione del campo, che avvenne ai primi di maggio del 45. Rientrato in Italia, tornò alla vecchia passione per la bicicletta, partecipando a molte competizioni. Emigrò in Belgio e si stabilì appunto a Bruxelles nel 58, dove appunto seguì la moglie, che è una signora belga, e fu uno dei primi funzionari italiani della Commissione delle Comunità Europee. Nel suo impegno per la comunità italiana emigrata fu presidente del Comitato Assistenza Scolastica Italiana e presidente dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, in Belgio, così come presidente dell'Associazione Internazionale dei Funzionari Europei Resistenti, deportati e internati. Quindi appunto ci sarà questa commemorazione, come dicevo, per coloro che hanno abitato in Belgio negli ultimi anni è impossibile non averlo visto, perché spesso lo si è visto non solo nelle giornate della memoria il 27 gennaio, dove sempre lui partecipava, ed era sempre accompagnato dalla moglie, una donna dolcissima, e lui ogni volta che iniziava a parlare delle sue vicende personali, a un certo punto doveva interrompersi, quindi non possiamo immaginare il dolore che si portava dietro quest'uomo, e come tutti coloro che sono scampati ai campi di concentramento. Una cosa bellissima che lui faceva era di andare nelle scuole e parlare ai ragazzi, raccontare la sua vicenda. Tra l'altro potrebbe sembrare anacronistico che oggi esista un'associazione chiamata Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ma purtroppo osserviamo sempre di più dei fenomeni di nazionalismo, di episodi anche di inno al fascismo, sì, o al nazismo, sì. E queste cose invece ci devono far spaventare, riflettere soprattutto perché queste persone, secondo me, non hanno minimamente la conoscenza di quello che c'è stato, cioè di solito sono persone molto giovani e non hanno vissuto, e forse la testimonianza di qualcuno che lo ha vissuto è importante, perché si devono rendere conto della realtà. Forse viene tutto un po' falsato, l'impressione che sia tutto un poco falsato, non si rendono conto. Sì, infatti, per non parlare delle voci che ogni tanto si sentono dire che i campi di concentramento o i morti nei campi di concentramento sono tutta un'invenzione, sono delle cose veramente aberranti che fanno venire semplicemente la pelle d'oca. Comunque, insomma, per ricordare quest'uomo grandioso, e ripeto grandioso perché nonostante tutta la sofferenza subita, e so appunto che per molti anni lui non è riuscito neanche a parlare di queste vicende, poi invece ha fatto un grande sforzo, ha superato quindi questo suo dolore, e per molti anni, quindi fino penso a poco tempo fa, lui andava a parte appunto in questi avvenimenti di commemorazione, ma anche e soprattutto nelle scuole a parlare ai ragazzi. Quindi ci sarà una serata dedicata a Ennio Odino, detto Crick, il giorno 21 gennaio 2015 alle ore 19 presso l'Istituto Italiano di Cultura, e ovviamente la serata è organizzata con la sezione AMPI di Bruxelles. Allora, io proporrei ancora un piccolo brano musicale e ci ritroviamo fra poco. Mi raccomando, rimanete con noi, con I Colori dell'Anima, con Anna Maria e Rosanna. A dopo. Sì. Questo era un brano di Renato Zero, e così questo Bella la vita che se ne va faceva proprio pensare, sembrava fatta apposta per Pino Daniele che se n'è andato da poche ore. Allora, Anna Maria, siamo quasi arrivati alla fine. Sì, siamo alla fine, quindi direi che non ci prolungheremo molto di più. Ci sono ancora un paio di eventi che possiamo segnalare, come il film, sempre dell'Istituto Italiano di Cultura, il film La Bottessi Tatet del collettivo Zimmer Frey, quindi questo è programmato per il 22 di gennaio alle ore 19. E poi c'è un film Anime Nere, che è del 2014, di Francesco Munzi, questo è in programma per il 26 gennaio, parliamo sempre dell'Istituto di Cultura. Anime Nere è tratto dall'omonimo romanzo di Gioacchino Criaco. Il film è girato ad Africo, uno dei centri nevralgici dell'Andrangheta calabrese. Un film straordinario per forza emotiva e coerenza narrativa, un incontro raro tra storia e contesto, tra forza della finzione e concretezza del reale, che fa del film una splendida riuscita. E qui penso che ci fermiamo, perché ci saranno altri eventi, ma sì, non siamo qui a elencarli tutti, insomma. Comunque potete andare appunto al sito dell'Istituto Italiano di Cultura Bruxelles, www.iicbruxelles.be, e trovate tutte le informazioni. Comunque è un gennaio ricco di avvenimenti e vi invitiamo appunto a recarvi all'Istituto Italiano o in altri posti come il Bosar, a seconda degli avvenimenti, per partecipare. Anna Maria, che dirti? Grazie. Eccoci qua, grazie. Ma non buon abbiamo anno. Scelto il colore. Ah, è vero. Ops. E quale non colore ci abbiamo scegliamo? Neanche pensato. Argento, dai, scegliamo argento. Argento. Argento. Come l'astro d'argento, la luna. Come, sì, infatti, per cominciare questo anno con tanta luce. Tra l'altro, non so, forse la notte scorsa c'è stata anche la luna piena. Può darsi, qualcosa, non lo insomma, so, così non lo oggi so. Se ne parlava. Non mi sono documentata. Va bene, buona serata, buona rimanete serata con te, Radio mille. Alma, e mentre I Colori dell'Anima ritorneranno quindi lunedì 12 alle ore 21. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Anna Maria. Ciao Rosanna. Ciao.